personaggi letterari del Falco e il Gabbiano di Enrico Ruggeri. I giapponesi sono un popolo molto particolare, oggi come un tempo, perché hanno usi, abitudini che magari a noi occidentali possono anche sembrare strani, qualcosa di inconcepibile per la nostra mentalità pragmatica e glamour. Uno dei concetti che per i giapponesi sono più forti, e uno dei concetti per i quali io li stimo molto, è il concetto di onore. Per l'onore un giapponese è disposto anche a morire. Perdere l'onore rappresenta uno dei fatti più gravi che possa capitare a un giapponese ancora oggi, ma immaginate com'era ai tempi dei samurai. È stato perfino inventato un sistema per uccidersi se si perde l'onore o se si rischia di perderlo. Noi lo conosciamo come harakiri, letteralmente taglio del ventre, mentre per i giapponesi, questo è un termine che loro usano solo nella lingua parlata, nella lingua scritta più in generale si chiama seppuku, è Mishima Docet. Il seppuku è nato attorno all'anno 1000, veniva eseguito dai samurai secondo un rituale rigidamente codificato, era l'espiazione di una colpa commessa, il mezzo per sfuggire a una morte disonorevole per mano dei nemici. E siccome si pensava che il ventre fosse la sede dell'anima, il significato del rituale era mostrare a tutti la propria essenza priva di colpe, mostrarsi in tutta la propria purezza. Il taglio doveva essere seguito da sinistra verso destra e poi verso l'alto, mentre ci si trovava nella classica posizione giapponese detta seiza, cioè in ginocchio con le punte dei piedi rivolte all'indietro, per impedire che il corpo cadesse di schiena, dato che, secondo il codice morale allora seguito, il guerriero doveva morire adagiandosi onorevolmente in avanti. Ma la conservazione dell'onore, il preservare l'onore tramite anche il suicidio, non era una pratica che i giapponesi riservavano solamente ai loro guerrieri, ai samurai, era qualcosa di insito nella cultura, che si estendeva anche alle donne. Nata come difesa dagli stupri in seguito a una disfatta militare, questa pratica veniva eseguita anche per altre uscite di scena che dovevano essere spettacolari e soprattutto dignitose, anche magari a seguito del suicidio, del seppuku del marito, per esempio, per evitare di essere fatte prigioniere. La versione femminile del suicidio rituale giapponese si chiama jigai e prevede il taglio della carotide, della vena giugulare, quindi all'altezza del collo. È una pratica cruenta alla quale le giapponesi venivano istruite fin da bambine. Anche la nostra protagonista di oggi conosce molto bene la pratica del jigai, l'ha imparata da piccolina come tutte le altre bambine giapponesi del suo tempo. Lei naturalmente non ha nessuna intenzione di usarla, è una ragazza che ama la vita, che ha un carattere molto allegro e solare. Il suo nome è Chocho-san, che in giapponese significa signora farfalla, tanto che tutti la chiamano Madama Butterfly. Chocho-san vive a Nagasaki, siamo agli inizi del Novecento, lei ha 15 anni, è una geisha. Ora, le geisha sono molto considerate in Giappone, sono artiste, intrattenitrici colte. La parola geisha significa proprio arte della donna, non vanno assolutamente confuse con le prostitute, perché non lo sono, non sono neanche delle escort, sono molto di più, sono abili danzatrici, sono elegantissime nei loro kimono di seta, sono in grado di sostenere una conversazione a alto livello perché sono molto istruite, sono espertissime nella cerimonia del tè, nel servire il sake, nel creare composizioni floreali, scrivere i complicati ideogrammi giapponesi. Sono perfette quando si cimentano nella letteratura, nella poesia, per intrattenere i loro ospiti. È una professione molto complessa che richiede anni di studio. Le geisha iniziano il loro apprendistato da piccole. Chocho-san ha 15 anni ed è già una geisha molto considerata e apprezzata. Ha dovuto scegliere di lavorare fin da quando era molto giovane a causa di un dissesto familiare del quale per il momento non sappiamo di più. Quello che sappiamo per certo è che Madama Butterfly è talmente bella e affascinante che ha fatto innamorare di sé un americano che l'ha incontrata per caso, è il tenente della marina statunitense Benjamin Franklin Pinkerton. Pinkerton è un po' smarrito perché non sa bene come considerare questo suo sentimento improvviso che prova per Ciocio Sane. Amore o grillo, donna o gingillo, si domanda, è un sentimento vero o solo un capriccio? Insomma, è la domanda che tutti noi uomini ci facciamo per tutta la vita. Alla fine la risposta se la dà da solo quando dice: di rincorrerla furor mi assale, pur se infrangerne dovessi l'ale. Insomma, è invaghito ed è disposto anche, come dire, a rischiare parte del suo bagaglio affettivo. Le leggi del Giappone peraltro gli permettono di togliersi questo sfizio, perché lui può anche sposare la giovane ma ripudiarla un mese dopo. Insomma, sono anche ancora periodi dove la donna non era particolarmente tutelata, quindi lui non ha molto da perdere. Le chiede di sposarlo, lo fa attraverso un sensale di sposalizi, un certo Goro, che è un trafficone, uno che gli organizza tutto in cambio di un lauto compenso. Fa incontrare i due, le fa la proposta, lei accetta, Goro trova la casa, il nido nuziale. Insomma, oggi ci sono dei manager che per delle artiste di un certo tipo fanno lavori del genere. Goro trova una cameriera che si chiama Suzuki, prende appuntamento col console americano a Nagasaki, Sharpless, per fargli celebrare le nozze, invita tutti i parenti di Butterfly. Insomma, tutto è pronto per questo matrimonio che Pinkerton considera, diciamo, come una festa, non come un matrimonio vero, non come quello che uno celebrerebbe in America. E quando arriva Sharpless, il console, Pinkerton e il console parlano di questa cerimonia e lui svela, insomma, questo suo disegno, la sua cinica filosofia Yankee, che lo porta a godersi la vita sprezzante dei pericoli e soprattutto senza curarsi troppo dei sentimenti degli altri. Ciocio San gli piace, lui la vuole prendere, se c'è da fare una festa va tutto bene, se poi si dovesse stancare non importa, perché la legge giapponese è dalla sua parte. Sharpless gli fa un rimprovero garbato: guarda che lei ci crede veramente a questo amore, è passata dal consolato per i documenti, l'ho sentita parlare di te, lei ti ama, per lei il matrimonio è valido, sarebbe un peccato strappare delle ali così delicate. Pinkerton però, insomma, non si fa smuovere da questo rimprovero, non c'è male, voglio indirizzare quelle ali ai voli dell'amore. Insomma, è un po' sbrigativo, un po' cinico, non è proprio un uomo che una donna dovrebbe incontrare. Nel frattempo si sente delle persone che stanno gridando, persone in festa, è il corteo nuziale di Butterfly che si sta avvicinando. Io sono la fanciulla più lieta del Giappone, anzi del mondo, dice Ciocio Sana al suo arrivo nella nuova casa di fronte al suo futuro sposo. Lei ci crede, è innamorata del suo americano, pensa che vivrà con lui tutta la vita, lo vede ardente di passione, confonde i sentimenti dell'ufficiale, purtroppo succede alle donne, cioè interpreta questo ardore fisico come il segnale di un amore forte e sincero, e a volte, ahimè, gli uomini sono bravissimi nel, come dire, sdoppiare questi due aspetti della loro affettività. Non è così in questo caso, tutti sono attorno a lei, il console le fa dei complimenti, le dice che il nome Butterfly le sta benissimo, le chiede quanti anni abbia, lei ne ha solamente 15, le chiede se lei provenga da una famiglia di Nagasaki, lei risponde che sì, viene da una famiglia che era molto benestante un tempo, che poi è caduta in disgrazia. Non spiega il motivo di questo cambiamento delle sue condizioni, noi lo scopriremo molto presto. Butterfly ha portato con sé la sua dote, una dote povera, piccole cose, dei fazzoletti, una cintura, uno specchio, un ventaglio, un vaso di tintura per il trucco tradizionale delle geishe, tra i vari oggetti anche un astuccio lungo e stretto che lei tiene come una reliquia. Quando Pinkerton le chiede cosa contenga, lei non risponde, ma si intristisce, il suo viso diventa cupo. A questo punto Goro, il manager, il sensale, prende l'ufficiale da parte, gli spiega che quell'astuccio contiene un coltello, il coltello con il quale il padre di Butterfly si è suicidato su invito dell'imperatore. Qui torna il discorso sull'onore che abbiamo fatto all'inizio. Il padre della ragazza ha dovuto lavare col suo sangue l'onta di qualche azione che ne avrebbe scalfito l'onore. Questo è il mistero che nasconde Butterfly. La ragazza si riprende in fretta, sorride nuovamente perché è arrivato il momento tanto atteso, il momento delle sue nozze. È concesso al nominato Benjamin Franklin Pinkerton, luogotenente nella cannoniera Lincoln, Marina degli Stati Uniti, America del Nord, e alla damigella Butterfly del quartiere di Omara, Nagasaki, di unirsi in matrimonio, per diritto il primo, della propria volontà, ed ella, per consenso dei parenti, qui testimoni all'atto. Ecco, la cerimonia è stata fatta, Madame Butterfly è diventata Madame Pinkerton. Tutti sono felici, brindano contenti, però poi si sentono delle urla fuori e un uomo che da lontano inveisce furiosamente contro Butterfly. E lo zio, Bonzo si chiama, irrompe nella cerimonia, urla, strepita e sostiene che Butterfly ha compiuto un gesto inaccettabile, ha rinnegato la fede dei suoi avi, ha abbracciato la fede cristiana, quella del marito. Eh sì, è vero, per dimostrare la sua devozione al marito, Butterfly qualche ora prima del matrimonio è salita alla missione, si è convertita, ha pensato che fosse un bel gesto, tutto spinto dal suo grande amore. Adesso potrà pregare al fianco di Pinkerton nella stessa chiesa, un ostacolo in meno a dividerli, dato che i due già sono di mondi diversi e lontani. E quello che è, in fondo è un atto d'amore, invece viene interpretato male dallo zio Bonzo e dagli altri familiari di Butterfly. Loro se ne vanno dalla festa arrabbiatissimi dopo averla ripudiata. Lei adesso è sola, piange disperata, però dice al marito: oh te, sono ripudiata ma felice, e lui la consola. Però in questo momento, come dire, l'investimento affettivo di Butterfly è totale. Lei torna a sorridere subito perché è la prima notte di nozze, insomma, quindi è il momento così più bello della vita di una donna, soprattutto di quegli anni. Pinkerton placa il pianto di Butterfly con parole di passione. La ragazza è ingenua e ancora una volta confonde l'amore con il desiderio, e lei è veramente innamorata del marito. Adesso voi siete per me l'occhio del firmamento. E mi piacesse dal primo momento che vi ho veduto. Siete alto, forte, ridete con modi così palesi e dite cose che mai non intesi. Ora sono contenta. Vogliatemi bene, un bene piccolino, un bene da bambino quale a me si conviene. Noi siamo gente avvezza alle piccole cose, umili e silenziose, ad una tenerezza sfiorante pur profonda come il cielo, come l'onda lieve e forte del mare. E sentite quanta delicatezza, quanta profondità. Purtroppo Butterfly sta investendo tutto su quest'uomo e il suo amore, la sua fiducia non sono riposti nella direzione giusta. Si dovrà accorgere presto delle intenzioni del marito. Un mese dopo il matrimonio, appena la legge giapponese glielo permette, abbandona la sposa e se ne torna tranquillo in America. Lei però non capisce che lui l'ha abbandonata, o meglio, probabilmente non vuole capire. Lui dice che deve andare, che il dovere lo chiama, che deve tornare in America, le promette che ritornerà, che tornerà a primavera quando il pettirosso avrà fatto il suo nido. Però di primavera ne passano tre, i pettirossi continuano a fare il nido e Pinkerton non ritorna. Dopo la partenza del marito, la Butterfly scopre di essere incinta e nasce un bambino bellissimo, biondo, somigliante al padre. Lei lo chiama Dolore, in attesa che torni il suo uomo, che lei possa trasformare quel nome in gioia. Eh sì, perché Butterfly non è sfiorata minimamente dall'idea che lui non torni. È disperata, piange tutte le notti per lo sconforto, per la nostalgia, anche problemi economici, perché naturalmente non lavora più come Geisha, deve mantenere lei e il suo bambino, non ha nessuno che l'aiuti perché la famiglia l'ha rinnegata quando si è convertita al cristianesimo. Però nonostante tutto lei è forte per il suo amore ardente, per il suo amore tenace, questo amore la sostiene, lei continua a ripetere a tutti che un giorno si vedrà spuntare un filo di fumo e la nave che le riporterà indietro il suo adorato sposo. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. Siamo a Nagasaki, Giappone, agli inizi del Novecento. C'è un giovane ufficiale della Marina degli Stati Uniti che si chiama Benjamin Franklin Pinkerton che si è invaghito, non innamorato, è attratto da una giovanissima giapponese che si chiama Chocho-san, una bellissima geisha, decide di sposarla. La sposa con una leggerezza, direi quantomeno riprovevole, perché sa che la legge giapponese prevede che lo sposo possa ripudiare la moglie dopo un mese di matrimonio, cosa che lui fa, insomma, sedotta e abbandonata. Però Chocho-san, la ragazza, è veramente innamorata, ha investito tutto su questo amore, è stata ripudiata anche dalla sua famiglia. In questo momento lei è sola con un figlio avuto dal capitano Pinkerton, è assolutamente in balia degli eventi. E sì, perché Pinkerton è rientrato in patria, ha lasciato la moglie con una promessa palesemente falsa: tornerà a primavera quando il petirosso farà il nido. Dopo 3 anni di lui si sono perse le tracce. Chocho-san è forte perché ama, ha un amore ardente e tenace, alleva questo bambino e continua a ripetere a tutti che suo marito presto tornerà. Butterfly è convinta che un bel giorno dall'orizzonte quella nave spunterà e dentro ci sarà Pinkerton e tornerà da lei e la chiamerà ancora con gli affettuosi vezzeggiativi di un tempo. E intanto però è pressata da questo goro, ricordate, questo signore, insomma, non da ammirare, questo sensale, questo trafficone giapponese, questo pseudo manager che le propone nuovi mariti. A lei farebbe comodo risposarsi perché è rimasta senza sostentamento, ma lei è fedele, è convinta di essere ancora la moglie di Pinkerton e è certa che lui stia per tornare. E non si sbaglia, perché l'ufficiale americano ha scritto al console che a breve tornerà a Nagasaki per impegni militari. Ma quello che è scritto nella lettera è qualcosa di terribile, di drammatico, perché Pinkerton negli Stati Uniti si è sposato sul serio con una ragazza americana, Kate, che lo accompagnerà nel suo viaggio. E Pinkerton scrive così al console: amico, cercherete quel bel fior di fanciulla. Da quel tempo felice 3 anni sono passati e forse Butterfly non mi rammenta più. Se mi vuole bene ancora, se mi aspetta, a voi mi raccomando, perché vogliate con circospezione prepararla al colpo. Avete capito bene, Pinkerton delega al console Sharpless e gli dice di andare da Butterfly a dare questa notizia. È una notizia che per la donna sarà tremenda, quello che lei ha aspettato per 3 anni senza mai dubitare un attimo. E in realtà non solo non l'ama più, anzi direi non l'ha mai amata, ma si è sposato con un'altra, una che lui reputa più degna di stare al suo fianco. Ma non solo, ha una donna vera e non quella che per lui è stata solo la donna di una sceneggiata, di un matrimonio festoso, ma la porta lì. Il console però, di fronte all'amore di Butterfly, non ce la fa, non ha il coraggio di rivelarle la verità. Quando prova a chiederle: ma tu cosa faresti se Pinkerton non tornasse mai più? Lei risponde: piuttosto che rimettersi a fare la geisha e a stare in pubblico a cantare e esibirmi, piuttosto mi uccido. E peraltro in questo momento viene fuori anche l'esistenza di questo bambino, del figlio di Pinkerton, che Butterfly ha sempre tenuto nascosto. Il console non sapeva nulla, promette alla donna che ne parlerà con l'ufficiale. E poi si sente un colpo di cannone, è l'annuncio che una nave è entrata nel porto. Butterfly si precipita fuori col cannocchiale, cerca di individuare la bandiera della nave, esulta, è lui, è la nave di Pinkerton, non sta più nella pelle, ordina alla sua aiutante di cogliere tutti i fiori del giardino per adornare la casa per ricevere degnamente il suo sposo. e dopo aver sistemato la casa nel migliore dei modi, Butterfly decide di indossare il suo abito da sposa. E se non vi si è ancora spezzato il cuore ascoltandomi, si sta per spezzare tra poco, perché lei è pronta, accoglie il marito, è pronta a accoglierlo dimostrandogli tutto il suo amore, facendogli capire con uno sguardo che in lei non è cambiato nulla nonostante siano passati 3 anni. Si sistema sulla soglia di casa assieme al bambino e alla fedele Suzuki. Non andrà a dormire, vuole aspettare anche fino al mattino se necessario, pur di farsi trovare sveglia da Pinkerton. La notte si dilegua, Butterfly è sempre lì, è stata tutta la notte a aspettare il suo uomo. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. Madama Butterfly ha vegliato tutta la notte aspettando Pinkerton. Lui non arriva. All'alba lei si ritira nelle sue stanze. È affranta, al figlioletto addormentato in braccio. E poi però Pinkerton arriva veramente in compagnia della moglie Kate e del console Sharpless. Eh già, perché al peggio non c'è fine. Appena lui ha saputo dell'esistenza del figlio, ha deciso di andare a casa di Butterfly sulla collina per convincerlo ad affidare il bambino a lui, che lo potrà crescere negli Stati Uniti alla maniera occidentale e con tutti gli agi possibili, e insomma Yankee al 100% questo Pinkerton. E lui non capisce, non si accorge, non ha la sensibilità per cogliere la tragedia, quello che ha passato la Butterfly, alla quale lui adesso vuole addirittura togliere il figlio. Quando Suzuki gli racconta di come lei lo abbia aspettato per 3 anni, di quante lacrime abbia versato, con quanta fede lo abbia atteso, credendo in lui, credendo nel suo amore, finalmente ha un rimorso Pinkerton. Gira per le stanze della casa, le vede immutate dal breve tempo in cui lui aveva vissuto come marito in quella casa, vede il suo ritratto tenuto ostentato con amore, al cuore gonfio di dispiacere, e si allontana. Non ha le palle per affrontare di persona Butterfly. Butterfly si sveglia, arriva di corsa, vede il console americano, pensa che ci sia anche Pinkerton, e poi invece vede una ragazza, e Kate sta aspettando sulla terrazza. Comincia a capire, ha un presentimento terribile, interroga la sua fedele Suzuki, scopre la verità, capisce di essersi illusa, di avere investito per tutta la vita sulla persona sbagliata, sul sentimento mal riposto, di avere amato chi non l'aveva amata mai. Si rende conto addirittura anche che il figlio potrà stare meglio in America con un padre benestante piuttosto che in Giappone con lei, con davanti una vita di stenti. Kate le si avvicina, naturalmente non capisce niente del dolore di questa fanciulla, le chiede perdono, le promette che si occuperà del figlio come se fosse suo. Butterfly congeda tutti e, disperata, vuole rimanere sola, ordina a Suzuki di ritirarsi nelle camere da letto con il bambino. La serva fedele comincia a capire, capisce quali sono le intenzioni terribili della sua padrona, vuole restare con lei. Butterfly la spinge fuori con forza, rimane sola, sola coi suoi fantasmi, prende l'astuccio di lacca, quello che ha sempre custodito come una reliquia, estrae il coltello di suo padre e legge con solennità le parole incise sulla lama: con onore muore chi non può serbar vita con onore. E non c'è scampo, lei non vede nessuna altra soluzione, lavare l'onta della vicenda con il proprio sangue. Questa è l'unica prospettiva che lei vede come attuabile, è il suo colpo d'ala più terribile, è pronta per il jigai. Suzuki ha un gesto estremo per cercare di salvare la padrona, spinge il bambino nella stanza, spera che questo la possa far uscire da questo tunnel nel quale si è lanciata. Lei abbraccia il bambino, lo bacia con trasporto e gli rivolge l'ultimo straziante addio. Amore, amore mio, fior di giglio e di rosa, per te, per i tuoi puri occhi, muore Butterfly, perché tu possa andare di là dal mare senza che ti rimorda i dì maturi e il materno abbandono. O tu, sceso dal trono dell'alto paradiso, guarda bene di tua madre la faccia, che te ne resti una traccia. Addio, piccolo amore. Butterfly benda suo figlio, raccoglie il coltello del padre, si ritira dietro un paravento e si uccide. In quello stesso istante arriva Pinkerton, che la sta invocando da lontano, che ha trovato finalmente il coraggio di affrontarla. Arriva troppo tardi, è pentito, è disperato, il pentimento è tardivo. Lui si getta sul corpo senza vita di Butterfly, la donna che lo ha amato con questa dedizione totale, senza domandarsi nulla. Ci sono storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala, e ci sono anche persone che per il proprio onore hanno rinnegato la loro stessa vita, soprattutto se figlie di culture millenarie come quella giapponese. Il gesto di Butterfly è l'ultimo momento nel quale una donna si è immolata per un amore nel quale lei aveva creduto e sul quale aveva investito tutto. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, scrivete al nostro sito, venite a trovarmi, a trovarci nei miei, nei nostri social. Ciao, a domani. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.